Cari fratelli e sorelle, ha inizio domani la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che concluderò personalmente nella Basilica di San Paolo fuori le mura il prossimo 25 gennaio con la celebrazione dei Vespri, a cui sono invitati anche i rappresentanti delle altre chiese e comunità ecclesiali di Roma. I giorni dal 18 al 25 gennaio e in altre parti del mondo la settimana attorno alla Pentecoste sono un tempo forte di impegno e di preghiera da parte di tutti i cristiani, i quali possono avvalersi dei sussidi elaborati congiuntamente dal Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Ho potuto avvertire quanto sia sentito il desiderio dell'unità negli incontri che ho avuto con vari rappresentanti di chiese e comunità ecclesiali lungo questi anni, in modo molto commovente nella recente visita al patriarca ecumenico Bartolomeo I ad Istanbul in Turchia. Su queste ed altre esperienze che hanno dilatato il mio cuore alla speranza, tornerò più lungamente mercoledì prossimo. Il cammino dell'unità resta certamente lungo e non facile. Occorre tuttavia non scoraggiarsi e continuare a percorrerlo contando in primo luogo sul sicuro sostegno di colui che prima di partire per il cielo ha promesso ai suoi: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. L'unità è dono di Dio e frutto dell'azione del suo Spirito, e per questo è importante pregare. Più ci avviciniamo a Cristo, convertendoci al suo amore, più ci avviciniamo anche gli uni agli altri. In alcuni paesi, tra cui l'Italia, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani viene fatta precedere dalla giornata di riflessione ebraico-cristiana che si celebra proprio quest'oggi, il 17 gennaio. Da ormai quasi due decenni la Conferenza Episcopale Italiana dedica questa giornata, il 17 gennaio, all'ebraismo con lo scopo di promuoverne la conoscenza e la stima e per incrementare il rapporto di reciproca amicizia tra la comunità cristiana e quella ebraica, rapporto che si è sviluppato positivamente dopo il Concilio Vaticano II e dopo la storica visita del servo di Dio Giovanni Paolo II alla Sinagoga Maggiore di Roma. Anche l'amicizia ebraico-cristiana, per crescere ed essere fruttuosa, deve fondarsi sulla preghiera. Invito pertanto tutti a rivolgere quest'oggi un'insistente invocazione al Signore perché ebrei e cristiani si rispettino, si stimino e collaborino insieme per la giustizia e la pace nel mondo. Quest'anno il tema biblico proposto alla comune riflessione e preghiera in questa settimana è, come abbiamo sentito nella lettura del Vangelo, fa sentire i sordi e fa parlare i muti. Sono parole tratte dal Vangelo di Marco e si riferiscono alla guarigione di un sordo muto da parte di Gesù. In questa breve pericope letta appena ora, l'Evangelista narra che il Signore, dopo aver posto le dita negli orecchi e dopo aver toccato con la saliva la lingua del sordo muto, operò il miracolo dicendo Effata, che significa apriti. Riacquistato l'udito e riavuto il dono della parola, quell'uomo suscitò l'ammirazione degli altri raccontando quanto gli era capitato. Ogni cristiano, spiritualmente sordo e muto a causa del peccato originale, con il battesimo riceve il dono dell'Effata, il dono che il Signore mette le sue dita nella nostra faccia. E così, tramite la grazia del battesimo, ogni cristiano diventa capace di ascoltare la parola di Dio e di proclamarla ai fratelli. Anzi, a partire da quel momento è compito del cristiano maturare nella conoscenza e nell'amore di Cristo, così da poter annunziare e testimoniare efficacemente il Vangelo. Questo tema, mettendo in luce due aspetti della missione di ogni comunità cristiana, l'annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità, sottolinea anche quanto sia importante tradurre il messaggio di Cristo in concrete iniziative di solidarietà. Ciò favorisce il cammino dell'unità, perché si può dire che ogni sollievo, pur piccolo, che i cristiani recano insieme alla sofferenza del prossimo, contribuisce a rendere più visibile anche la loro comunione e la loro fedeltà al comando del Signore. La preghiera per l'unità dei cristiani non può tuttavia limitarsi a una settimana dell'anno. L'invocazione corale al Signore, perché sia Egli a realizzare nei tempi, nei modi a Lui solo noti, la piena unità di tutti i Suoi discepoli deve estendersi ad ogni giorno dell'anno. Inoltre, l'armonia di intenti nella diaconia per alleviare le sofferenze dell'uomo, la ricerca della verità del messaggio di Cristo, la conversione e la penitenza sono tappe obbligate attraverso le quali ogni cristiano degno di questo nome deve unirsi al fratello per implorare il dono dell'unità e della comunione. Vi esorto dunque a trascorrere questi giorni in un clima di orante ascolto dello Spirito di Dio, perché si compiano significativi passi sulla via della comunione perfetta e piena fra tutti i discepoli di Cristo. Ciò ottenga la Vergine Maria, che invochiamo come madre di richiesta della Chiesa e sostegno di tutti i cristiani, sostegni del nostro cammino verso Cristo.